Radio 24 Reportage. Donne al comando tra utopie e realtà, di Alessandra Schepisi. Presumo sia dovuto a un fatto culturale che viene dal passato, dove la donna era vista come colei che gestiva la casa, e il passaggio culturale è sempre la parte più difficile di tutte. Si spera che adesso magari qualcosa cambi col nuovo millennio e tutto ciò che sta andando avanti, però la vedo dura. In Italia ci sono ancora poche donne in politica, poche donne al comando, alla guida di aziende. Per questo stiamo male. Ce ne sono sicuramente poche, perché comunque hanno più potere gli uomini. O mettiamo un numero minimo che è sopra il 50%, altrimenti è solo un palliativo e basta. Ed è giusto prevedere per legge una presenza femminile? Dovrebbe essere una cosa civile, di un paese civile, naturale, insomma. Assolutamente non per legge, sarebbe quella lì una forzatura inutile. Ma la colpa di chi è del fatto che non ci sono delle politiche sociali a supporto della famiglia? Perché le donne non fanno carriera? Ma un po' viene da lontano questa cosa, e poi anche per questo, perché l'uomo è talmente invadente, invasivo, sta sempre in mezzo, crede di saper far tutto, è difficile per noi poi. Non crede nelle capacità della donna, secondo me. Ma io sulle quote donne non è che sia tanto d'accordo metterla per legge, il discorso è proprio che affrontarla culturalmente, cioè il discorso è che dobbiamo affrontarla noi ogni giorno, affrontarla culturalmente, spingere le donne a fare una certa attività, spingere le donne a fare la loro bella carriera politica, aziendale e lavorativa. Lavorano meno, e se lo fanno guadagnano meno degli uomini, e quelli che arrivano ai posti di comando sono mosche bianche. Il potere in Italia fa ancora molta fatica a tingersi di rosa. Poche le donne alla guida di aziende, così come di istituzioni pubbliche. Tante ancora invece le difficoltà che il gentil sesso deve affrontare per avviare o dirigere un'impresa, a partire dall'accesso al credito fino ad arrivare alla lunga strada per ottenere riconoscimenti in un mondo prevalentemente maschile, e per non parlare della difficoltà nel conciliare il lavoro e famiglia, una capacità che solitamente non viene richiesta agli uomini. Eppure, secondo alcuni studi, le aziende guidate da donne sarebbero meno a rischio fallimento, e se si aumentasse l'occupazione femminile a livelli di quella maschile, il PIL crescerebbe addirittura del 22%. Insomma, ci sarebbe tutti da guadagnare. Penso che sono molto più determinate, capaci anche sicuramente, organizzatrici. Già il fatto stesso che hai la famiglia in mano sempre alla donna, insomma, perché un uomo da solo penso che sarebbe la rovina della famiglia. Quindi già la famiglia è un test. Sì, sicuramente. Più calme e ragionevoli nel sostenere alcune cose. Magari gli uomini ci parlano e poi non fanno niente, magari le donne sono più serie. Sono molto più organizzative, hanno molta più organizzazione degli uomini, quello sicuramente. Secondo me le donne sono più intelligenti, secondo me. Noi che lavoriamo in un'azienda, che io posso anche dichiarare, lavoriamo alla Ducati Motor di Bologna, abbiamo affrontato anche questo discorso con l'azienda, che deve comunque sollecitare una certa quota di donne. La presenza delle donne sicuramente dà, non lo so, un input in più. Se ci fossero più donne, insomma, sarebbe meglio, penso, per tutti, insomma, danno un apporto in più positivo. La situazione è comunque critica anche nel resto d'Europa. Secondo un rapporto pubblicato in occasione di questo 8 marzo, da ottobre 2011 a gennaio 2012, la media europea delle presenze nei consigli di amministrazione delle imprese più grandi è salita dal 13,6 al 13,7%, pochissimo dunque, per non parlare dell'Italia, che con il suo 6% è la maglia nera del vecchio continente. Resta sempre molto lontano, insomma, l'obiettivo del 30% entro il 2015 chiesto dalla commissaria alla giustizia e vicepresidente della Commissione europea, Viviane Reding. Sentiamola al microfono di Gigi Donelli. Un anno fa la media europea della presenza femminile all'interno dei consigli di amministrazione delle società era stata fissata al 12%, e oggi posso dire che abbiamo raggiunto il 14%. L'Italia è passata dal 4 al 6%, e così resta fra i paesi europei uno di quelli più indietro, ed è certo tra i paesi che hanno molto da fare. Abbiamo analizzato e sintetizzato con alcuni grandi studi affidati fra gli altri a McKinsey, Ernst & Young, Deutsche Bank, che laddove le imprese hanno un equilibrio maggiore fra presenza manageriale maschile e femminile, allora ottengono risultati finanziari migliori. Questo ci dice che tutto è interesse delle imprese avere più donne laddove si prendono le decisioni. Au milieu de l'entreprise. Commissario Reding, come mai l'Italia è così indietro? Je pense que c'est un pays qui n'a pas donné sa véritable chance. Credo che l'Italia sia uno di quei paesi che non ha ancora dato una reale chance alle donne, ed è un peccato, ed è comunque un atteggiamento che non riguarda solo l'Italia. Gli italiani, e non solo, si devono rendere conto che le donne rappresentano in media il 60% dei diplomi universitari, e non può essere che siano solo il 6% quando si tratta di prendere decisioni manageriali. C'è una grande disponibilità di talenti inutilizzati, e questa è una cosa che non ci possiamo più permettere. Tantomeno ora che facciamo i conti con un futuro a demografia negativa, in cui la popolazione invecchia abbastanza rapidamente. In questo contesto, lasciare fuori dal mercato quasi la metà dei talenti è un calcolo economico sbagliato ed estremamente pericoloso, non solo per le donne. Insomma, l'Italia non è un paese per donne, oltre che per giovani, ma quali sono gli esempi cui ispirarsi? I paesi nordici mostrano complessivamente il risultato migliore. Sono i paesi in cui esiste una politica chiara nell'assicurare la possibilità di esercitare la propria genitorialità, ovviamente insieme agli uomini. Insomma, vanno meglio i paesi in cui si può essere madre o padre e insieme pensare alla propria carriera senza limitazioni eccessive. Queste politiche sociali sono alla base della possibilità offerta alle donne di contribuire realmente al contesto economico. Gli scandinavi dunque, ma vorrei anche soffermarmi sul paese che grazie a scelte politiche ha compiuto un vero e proprio balzo in avanti. La Francia in un anno è passata dal 12 al 22% di donne nei consigli di amministrazione. La Francia si è data una legge sulle quote rosa e poi l'ha applicata con successo. 22% de femmes dans les conseils d'administration. La France qui ha votato. Insomma, politiche sociali che favoriscano la conciliazione della famiglia con il lavoro. Questo è il principale strumento per garantire effettiva parità di accesso nel lavoro. Mentre per garantire la presenza delle donne ai vertici, ricordiamoci che in Italia lo scorso giugno è stata approvata la legge sulle quote rosa, in base alla quale dal 2012 i CDA delle aziende quotate dovranno essere composti per un quinto da donne, dal 2015 per un terzo. Cristina Molinari è presidente del comitato Pari e Dispare, che si batte proprio per il raggiungimento della parità fra uomini e donne, si considera lei stessa un prodotto delle quote rosa. Io ho alle spalle una carriera manageriale in grosse multinazionali, devo dire di grande soddisfazione, e devo confessare che io sono un prodotto delle quote rosa. Il mio primo lavoro negli anni 70, nonostante che io avessi delle qualifiche molto significative, ero laureata benissimo in una materia molto, molto, mi faccio dire, molto ostica come la matematica, parlavo due lingue correntemente, fui assunta nel programma Black Women Handicapped. Io ci rimasi molto perplessa quando lo venni a sapere, perché non pensavo ad aver bisogno di un programma speciale, però la realtà è che io fui assunta e mi venne offerta un'occasione splendida che se no forse in Italia non mi sarebbe stato offerto. Quindi secondo me in situazioni di grave arretratezza o di grave pregiudizio come quello che si sta dimostrando esistere in Italia, le quote per un periodo transitorio sono positivo. Faccio un esempio tipicamente sui CDA, non c'era nessuna legge che impedisse prima di nominare una donna, cioè tutte le aziende quotate in borsa, non è che non ci fosse l'elenco telefonico delle professioniste, piuttosto che non avessero a disposizione la competenza per andare a trovare delle donne qualificate per sedere in un consiglio di amministrazione, e che non gli veniva in mente. Oggi, essendoci questa legge, molte delle quotate si stanno muovendo con largo anticipo nella selezione dei curriculum. Questa legge ha prodotto, no, un'accelerazione, che era quello poi che ci voleva. La legge sulle quote rosa comincerà a dispiegare i suoi effetti a partire dalla prossima estate. Staremo a vedere dunque se permetterà all'Italia di scalare qualche posizione nella classifica europea sul tema delle pari opportunità tra sessi, a cominciare dal lavoro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.